Buongiorno a Radio Fujiko. Noi partiamo il 2 di dicembre con il nostro festival dal 2 al 4, giornata conclusiva dove ci sarà anche la premiazione, perché questo oltre ad essere un festival è anche un concorso, quindi ci sarà un premio di circa 1000 euro per chi vincerà questa edizione, undicesima edizione del Festival Divergenti. Io ne sono direttrice artistica con Porpora Marcasciano. Un festival che quest'anno prevede ben 10 opere molto importanti, alcune inedite, due tavoli di confronto sul progetto degli archivi, una forte rappresentazione di tematiche che in questo momento sono molto importanti in un contesto che diventa sempre di più politico, e lo si vede già dalla scelta del manifesto che è stato scelto per il festival. Ce ne vuole parlare? Sì, certo, e sicuramente noi non potevamo far finta che non fosse successo niente quest'anno, e siccome l'affossamento del DDL Zan si è giocato proprio sulla nostra pelle delle persone trans, quindi per noi sembrava importante mettere un attimo da parte i colori, solo quelli del manifesto, e praticamente mettere nero su bianco quello che sta succedendo. Infatti il bianco è trans e basta, il nero è proprio quello, è proprio la negazione che abbiamo vissuto quest'anno, una negazione loro, perché per quanto ci riguarda noi non neghiamo loro, ma loro negano noi. Quindi non so se questo basta per capire qual è la logica che c'è dietro. Cos'altro posso dire? Noi abbiamo invece rilanciato quest'anno con 10 opere, sono 8 documentari e 2 fiction. E quello che mi preme sottolineare è che questo è un festival non solo LGBT, ma è un festival che, come dire, concentrato sulla T, esclusivamente trans, quindi raccoglie le opere in giro per il mondo e le ripropone. E quest'anno è molto importante focalizzarci, infatti ci sono molte esperienze personali di alcune persone sulla quotidianità, su rivedere la vita delle persone trans nel loro svolgersi, nella loro mutazione, nel loro viversi. Ed è molto importante anche per capire che cosa succede nella vita delle persone, sono esseri umani che nascono, muoiono, si ammalano e gioiscono e sono tristi come tutti gli altri e mangiano pure, ecco. Quindi vedere nella quotidianità queste persone, noi persone trans, probabilmente riduce la distanza che si crea tra l'immaginario e la realtà. Un festival importantissimo, che è uno dei pochi a portare la tematica trans nel cinema all'interno dell'immaginario del panorama europeo. Quest'anno a Bologna viene proiettato al Cinema Lumière sulla piattaforma Doc a casa, ma non solo, c'è una collaborazione con il carcere di Reggio Emilia, sì, per portare questo progetto anche nei diritti e nelle identità trans, anche in quei contesti dove spesso vengono dimenticati. Certo, ovviamente la cosa non nasce dal nulla, noi già negli anni scorsi abbiamo sempre tenuto una collaborazione col carcere di Reggio Emilia, siamo andati in carcere quando era possibile, fino al 2019, a trovare le persone trans e cercare anche di capire cosa si poteva fare all'interno di un carcere, ma già il fatto che ci sia qualcuno che ti venga a trovare e che abbia la tua stessa condizione alleggerisce molto l'isolamento che si vive in carcere. E dopo vari contatti e già collaborazioni, noi i colloqui li abbiamo continuati anche se sul via web, non solo col carcere di Reggio Emilia, anche con quello di Milano, perché ci sono alcuni carceri in Italia che hanno delle sezioni dedicate alle persone trans per ovvi motivi, e quindi quello di Reggio Emilia è proprio uno di questi con cui abbiamo inteso una stretta collaborazione. E quest'anno, grazie al DAP, praticamente riusciamo a portare alcuni film, non tutti, Perché? Perché ovviamente dobbiamo seguire certe regole, cioè nel senso si possono proiettare solo certi film che non abbiano queste scene, eccetera, eccetera, ci sono delle regole a cui noi ci siamo attenuti, però come dire, nonostante tutte le limitazioni, però anche quelli che abbiamo scelto non avevano bisogno di, come dire, di nessuna riforma interna e quindi siamo molto felici di questo. Ecco. Un festival davvero molto importante a cui non possiamo che augurare davvero il meglio e non vediamo l'ora di partecipare, anzi, per cui ricordiamo 2, 3, 4 dicembre al Cinema Lumière qui a Bologna e ringrazio Nicole De Leo per essere stata ai microfoni di Radio Città Fujiko. Io ringrazio voi perché Radio Città Fujiko per noi è sempre stata molto importante, abbiamo sempre avuto rapporti con questa emittente radiofonica, quindi io ringrazio voi, veramente vi aspettiamo al festival perché la produzione di cultura, di questo tipo di cultura per noi è molto importante perché abbatte molte barriere, ma non solo per noi ma anche per tanta altra gente che vive discriminazioni. Concordo molto, grazie mille. Grazie a voi.